c'era il cielo, chi c'è ancora adesso, ed è passato chissà quanto tempo, e con la voglia di rifarlo ancora cerco sempre lì, ripensandoci, ripensandoci, sto pensandoci. E non è vero che ti tengo fuori, che sono meglio quando siamo soli, che quando torto io non chiedo scusa e rimango qui, ripensandoci, ripensandoci, sto pensando a te. Ora che non so più che decidere, per una volta almeno vivere così. Tante parole e dirsi ancora un'altra volta ciao. E cerco solo un po' di storie tristi, e poi commuovermi sentendo i dischi, per poi sorridere davanti al mondo che ci aspetta qui, ripensandoci, ripensandoci, sto pensando a te. Ora che non so più se restare o se tentare l'impossibile. Tu che dici? Oppure dirsi un'altra volta ciao. Ripensare